Regina della pace, prega per noi. Regina dell'amore, prega per noi. Madre degli oppressi, prega per noi. Madre degli afflitti, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Stella dei viandanti, prega per noi. Porta per il cielo, prega per noi. Porta accogliente, prega per noi. Arca tutta santa, prega per noi. Arca dei dispersi, prega per noi. Mare dei migranti, prega per noi. Mare della gioia, prega per noi. Stella dei viandanti, prega per noi.